Storiacce di Raffaella Calandra. Secondo le autorità esiste una sorta di criminalità organizzata che fa del traffico di questi carburanti per poi venderli al mercato nero nel sistema dei trasporti. C'è stato un aumento negli ultimi due anni dove a causa dell'aumento del costo petrolifero c'è stata un'intensificazione di questo fenomeno. Noi abbiamo detto un vero e proprio disastro ecologico. Diciamo, dopo lo sversamento che ha investito dei corsi d'acqua c'è stata una grandissima moria di animali, a conferma che comunque questa conduttura che va da Civita Vecchia a Fiumicino e fornisce proprio l'aeroporto Leonardo da Vinci di Cherosene non ha un sistema adeguato di controllo. I pesci furono raccolti a quintali, morti a Maccarese, e servirono ripetuti viaggi di molti mezzi per portare via le carcasse di aironi, di nutrie e pure di volpi, tutti avvelenati dall'onda di cherosene che investì i terreni e i corsi d'acqua di quest'oasi protetta alle porte di Roma. Tutto per un furto di cherosene andato a male. Uno dei tanti furti di combustibile che negli ultimi anni stanno aumentando da una parte all'altra dell'Italia. Si ruba benzina dai camion o perfino dalle auto in sosta, come dagli autobus delle società pubbliche di trasporto. Ma si rubano anche migliaia e migliaia di litri di combustibile dagli oleodotti che attraversano il paese o dai vari depositi sparsi qua e là. Ma per farne cosa? Il sospetto è che, insieme all'aumento del costo del petrolio, possa essere aumentato a dismisura pure il mercato nero e parallelo del combustibile. Con quali danni, oltre che per l'economia, per l'ambiente, ma anche per la sicurezza? Se Maccarese è stato un disastro ecologico, come pure a Pistoia, un tentativo di furto di un liquido assai infiammabile può provocare anche incendi, ma casomai anche esplosioni? Aria di macchia mediterranea ad alta valenza ambientale, recita un cartello, caduto tra le foglie di una delle principali zone protette del Lazio. E da qui allora, dall'oasi di Maccarese divenuta un simbolo, parte questa puntata di Storiacce nei furti di combustibile. La costruenda distilleria del Maccarese per il trattamento delle canne di sorgo, da cui si estrae l'alcole destinato alla fabbricazione di carburante nazionale, è stata una delle mete del Duce durante la sua improvvisa visita agli impianti industriali nei pressi di Roma. Sanitaria delle bonificate terre di Maccarese nell'agro romano. Quasi 90 anni dopo, ben altra bonifica rispetto a quella del ventennio è stata necessaria a Maccarese come a Palidoro e in altri punti del litorale laziale attraversato per 70 chilometri dall'oleodotto Civita Vecchia Fiumicino. 30.000 litri di gasolio erano finiti nei canali e nei fiumi dopo l'ultimo furto alla conduttura che rifornisce di cherosene lo scalo romano. Soffocati, morirono centinaia di uccelli, pesci e tartarughe dopo questo sversamento di novembre che ha portato ai primi di gennaio al sequestro preventivo dell'intera struttura. Per il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, per la tutela della pubblica incolumità e per la mancanza di un sistema sicuro, scrive il procuratore di Civitavecchia Gianfranco Amendola al GIP, che ha poi autorizzato i sigilli. Dopo i ripetuti tentativi di furto, l'ENI fa sapere che accelererà l'introduzione di un nuovo sistema di controllo vibro-acustico. E questo sequestro, nota il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, ora impone urgenza agli interventi perché la paura è che un furto andato male possa provocare, ad esempio, fiamme. Già era partita una discussione, un confronto con l'ENI per discutere sulle misure, però non c'è dubbio che il pericolo molto serio che noi abbiamo su quella condotta, che possa succedere ancora una volta, porre rimedio attraverso il sequestro della condotta, sollecitare in questo modo l'ENI a fare gli interventi che devono essere fatti, credo che sia un provvedimento sacrosanto e molto giusto. Voi temete che questi furti possano in qualche modo anche rappresentare un pericolo? Non vigilati e non controllati da nessun sistema, questo può creare veramente un disastro continuo. Il cherosene è altamente infiammabile, c'è proprio un pericolo sulla sicurezza. Ecco perché il provvedimento della magistratura è un provvedimento giusto, perché crea una situazione d'urgenza, cioè mette l'ENI di fronte a una responsabilità e un'urgenza straordinaria. Ecco, sindaco, questo che tipo di ricadute ha sul rifornimento di cherosene per l'aeroporto di Fiumicino? È vero che comunque quella è un'importante condotta, però ci sono anche condotte supplementari, ci sono scorte e quindi non dovremmo avere problemi di servizi, soprattutto nel breve e medio termine. Certo, lungo termine qualche problema lo può creare. È stato sostituito con un trasporto con autocisterne? Però dovrebbe essere sostituito con autocisterne creando anche lì un problema di traffico. Non è però così facile rubare del cherosene da un tracciato su cui comunque, anche per la lunga lista di furti passati, erano stati aumentati i controlli, e anche lo stesso uso del cherosene non è così scontato. Alimenta gli aerei, lo sappiamo, ma chi lo ruba poi che se ne fa? In realtà pare che diluito possa essere usato anche per i mezzi agricoli. Di sicuro non sono furti improvvisati quelli di migliaia e migliaia di litri di combustibile di ogni genere. Successi a Fiumicino, ma anche a Domodossola in altro modo. Dietro c'è gente ben organizzata che ha pensato di alimentare un mercato nero vista l'impennata del costo del petrolio. E infatti negli ultimi 2 anni registrano le società petrolifere e le procure, i furti sono impennati soprattutto in alcune aree. Macarese diventi un simbolo per un ammodernamento dei controlli su tutti gli oleodotti alla richiesta del direttore delle politiche ambientali del WWF, Gaetano Benedetto. Nonostante la tecnologia, nonostante anche alcune ricerche fatte nel settore, a differenza di altre reti lineari, i gasdotti non hanno un sistema di sicurezza che può controllare, prevenire e consentire interventi immediati in caso di violazione. E quello che si vuole fare sostanzialmente è un forte richiamo non soltanto all'ENI, perché l'ENI non è l'unico soggetto che gestisce una rete di diverse migliaia di chilometri in Italia, ma a tutti gli operatori del settore petrolifero, per individuare o dei sistemi di monitoraggio oppure dei sistemi di vigilanza che aumentano il controllo su queste reti. Cioè, quindi voi volete aumentare l'attenzione su un fenomeno che è quello dei furti di carburante? Il furto di carburante è un fenomeno in crescita in Italia. Noi stiamo parlando di un carburante idoneo evidentemente agli aerei, ma in realtà noi abbiamo oleodotti che trasportano anche gasolio, abbiamo oleodotti che trasportano addirittura benzina, dove comunque le infrazioni sono maggiori perché evidentemente è più appetibile il bene che viene prelevato. I furti è di un combustibile, questo è cherosene, quindi cherosene che viene utilizzato appunto per gli aerei. Il cherosene diluito con altre sostanze può essere, come è stato illustrato anche dalla stessa ENI, utilizzate per trasporto pesante o per ambiti agricoli. In realtà, secondo le autorità che hanno dato alcuni segnali molto chiari in questo senso, esiste una sorta di criminalità organizzata che fa del traffico di questi carburanti per poi venderli al mercato nero nel sistema dei trasporti. Dobbiamo avviare un percorso per cui, con le nuove tecnologie, e l'ENI per primo ha dimostrato che è possibile, c'è un adeguamento che necessariamente comporta un investimento, e noi abbiamo sin da subito richiesto anche al Ministero dell'Ambiente e al Ministero dell'Economia un coordinamento per fare un programma pluriennale che vada a mettere in sicurezza il sistema degli oleodotti italiani. Io credo che il sequestro che il GIP di Civitavecchia ha fatto, per la forza che questo rappresenta, altrettanto vuole essere un monito nella stessa direzione. Voi avete un'idea dell'entità di questo fenomeno dei furti e quindi del mercato nero del combustibile? Abbiamo semplicemente rilevato dai dati che le stesse società petrolifere hanno evidenziato che c'è stato un aumento negli ultimi 2 anni. Di quanto più o meno? Un aumento significativo, loro hanno detto, non hanno dato dei numeri esatti, soprattutto in alcuni contesti ambientali in Italia, nel nord-est, così come nel Lazio e così come in altri tratti, sembra in Campania, dove a causa dell'aumento del costo petrolifero c'è stata un'intensificazione di questo fenomeno. Ora, la questione è anche molto pericolosa per i criminali che la operano, perché non è semplicissimo andare a fare un buco in un tubo che sta in pressione. Però evidentemente hanno trovato delle modalità che nella loro pericolosità sono relativamente semplici e consentono di spillare dall'oleodotto questi combustibili esattamente come si spilla il vino da una botte. Ma i furti sono anche quelli di dipendenti infedeli che spillano benzina dagli autobus pubblici o quelli dai depositi che riforniscono pure le caldaie. E così può capitare pure che intere cisterne di combustibile rubato a nord venga poi rivenduto a piccole dosi nel mercato nero, soprattutto al sud. Storiacce. Ha fatto clamore l'epidemia dei vigili di Roma la notte di Capodanno, eppure l'assenza di quelli di Napoli. A Bari, nei giorni di festa, a cadere malati, secondo un'espressione dialettale del sud, sono stati invece gli autisti di autobus. Più di 100, per l'esattezza 109, gli assenteisti per malattia o permesso la notte di San Silvestro, tanto da portare il sindaco a minacciare la privatizzazione della società dei trasporti barese, dove tra l'altro si consumerebbero pure furti di benzina dai mezzi. Ed è direttamente il primo cittadino, Antonio De Caro, a denunciarlo in procura. Voglio innanzitutto vedere se sono presente al lavoro e voglio capire se quello che poi l'azienda mi ha scritto nel piano di ricapitalizzazione, che per loro è un piano di rilancio, è vero, perché se devo mettere solo i soldi e poi non devo avere niente in cambio dall'azienda, l'azienda non mantiene gli impegni, preferisco cambiare completamente e privatizzare. Non c'è niente di male, lo hanno fatto altre città, dalla parte mia ci sono i cittadini, quindi non ho paura, sto per andare in procura anche a denunciare furti di gasolio, non mi preoccupo. Furti di gasolio in azienda, nell'azienda sì, dei trasporti? Sì, lo fanno da tanto tempo, avevano smesso, adesso è ripresa l'attività. Sospettate che siano dipendenti? Diciamo che ne abbiamo quasi la certezza. Autisti che rubano la benzina degli autobus cittadini? Può succedere anche questo nell'impennata dei furti di combustibile degli ultimi 2 anni? La corsa del petrolio e quindi il costo di un pieno ha di sicuro, secondo gli investigatori, favorito la ripresa di un mercato nero del combustibile anche a basso livello. Si ruba cioè dai mezzi in sosta o dagli autobus appunto, ma pure dalle auto parcheggiate per rivendersi il carburante. Lo fanno bande più o meno improvvisate, ma lo fanno anche organizzazioni ben strutturate che di questo hanno fatto un autentico business. Così soprattutto in Puglia si vende carburante spillato dai depositi di Sondrio, Pistoia o Domodossola, dove in una sola volta sono stati portati via quasi 70.000 litri di combustibile. Roba che richiede mezzi, soldi e di sicuro uomini. Eppure idee ben chiare di cosa fare della merce rubata, chiamiamola così. Ruoli e gerarchie sono stati ricostruiti nell'inchiesta della Procura di Verbania, che ha portato a 13 arresti tra la Valtellina e Foggia. Il comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Verbania, Giovanni Della Sala. Era un gruppo organizzato che si occupa di furti e danni di depositi di carburante. Che cosa vuol dire? Cioè che avevano schedate tutta una serie di depositi dove arrivano cosa? Le cisterne? Sì, in particolare il loro obiettivo erano i depositi di carburante. Effettuavano prima dei sopralluoghi nei giorni precedenti ai colpi e poi successivamente agivano di notte ed erano muniti di autocisterne, pompe e tubi per trasportare il gasolio da delle cisterne. Sì, ma depositi, cioè che possono essere accanto ai distributori di benzina o punti di stoccaggio, insomma, per intenderci, dove sostanzialmente veniva trasportato per poi essere caricato sulla sua cisterna e distribuito ai vari punti di rifornimento. Quindi parliamo sia per quanto riguarda l'erogazione di carburante, sia per quanto riguarda caldaie e cisterne per il riscaldamento. Infatti sono quantitativi consistenti e proprio l'indagine è partita da un furto consumato in provincia di Verbania, in particolare un deposito di Domodossola, dove sono stati asportati nel mese di ottobre del 2013 63.573 litri di gasolio. Esatto, adesso ci racconterà anche questo episodio qui, perché appunto le dimensioni ci danno chiaramente l'idea di un qualcosa di ben più strutturato, di un'organizzazione ben precisa per rubare il gasolio e chiaramente metterlo anche nel mercato nero. Ma ecco, tornando a questi ultimi furti che avvenivano soprattutto in Puglia, tra la Puglia e il nord Italia e Verbania, ecco, dov'è che si rubava soprattutto e poi dov'è che finiva il gasolio rubato? Abbiamo accertato 6 episodi, in particolare 3 ai danni di depositi di carburante, e altri invece sempre ai danni di depositi dove non sono riusciti a trasportare il carburante, quindi c'è stato anche un episodio tentato, e in altre due circostanze invece hanno lo stesso gruppo ha rubato un'autocisterna e una motrice. Questo carburante rubato, che cosa ne facevano, dove lo rivendevano? È emersa la figura di un personaggio residente a San Severo, un comune in provincia di Foggia, il quale finanziava le spedizioni del gruppo criminale, e poi una volta che questi avevano preso insomma il maltolto, provvedeva a piazzarlo sul mercato. Questo carburante rubato appunto in questi grandi depositi, in queste grandi cisterne, veniva appunto rivenduto, ma in che modo? Riteniamo che possa essere stato venduto a un mercato nero. Noi riteniamo che possa essere stato parcellizzato e non abbiamo riscontri che possa essere in qualche modo finito nel mercato ufficiale. C'è un controllo di malavita organizzata dietro questi furti di carburante oppure no? A noi non è emerso. È emerso comunque una struttura associativa, una struttura organizzata in cui sostanzialmente c'era una figura di un finanziatore che a sua volta provvedeva poi a ricettare il carburante. C'era un capo operativo. Avete ricostruito anche che questi furti avvenivano nel nord Italia e poi questo carburante veniva rivenduto al sud. Un altro è successo in provincia di Sondrio, dove la refurtiva era anche in questo caso comunque consistente, 90.000 litri, che è stato comunque restituito agli aventi diritto. Sostanzialmente al rientro dalla trasferta delittuosa si trovavano in Cerignola. Insomma, un furto fatto a Sondrio, ma i responsabili di questo furto e il carburante rubato è stato trovato e sequestrato a Foggia, quindi rubato al nord e rivenduto al sud, se non mi sbaglio anche a Pistoia. È stato un tentativo di furto in questo caso a Pistoia. Gli indagati sostanzialmente non sono riusciti a trasportare, a far raggiungere nelle cisterne il gasolio, ma bensì questo è fuggito dai depositi ed ha invaso i terreni circostanti causandone l'inquinamento. Al di là del fatto in sé, cioè del reato di furto, pongono una serie di altri problemi, che può essere un problema di sicurezza nel caso in cui appunto questi furti possono provocare, a volte anche un rischio di incendio o un rischio di esplosione, ma pongono, come già successo altre volte in Italia, di sicuro un problema di inquinamento laddove, come in questo caso di Pistoia o come è successo anche per l'oleodotto di Civitavecchia e Fiumicino, il tentativo di furto va a male e il carburante, in quel caso era il cherosene, finisce nelle campagne, nelle terre o nei fiumi circostanti, quindi ammazzando piante, animali. Ecco, come avvengono questi furti di carburante? Entravano all'interno utilizzando delle pompe e dei manicotti e provvedevano insomma ad aspirare e ad asportare il gasolio per travasarlo poi nelle cisterne che avevano al seguito. Certe volte la cisterna era seguita o preceduta da delle staffette proprio per evitare che si potessero essere delle pattuglie delle forze di polizia. Quanto è alto secondo lei, capitano, anche il rischio di incendi durante questi furti? Incendi quantomeno, se non esplosioni. Indubbiamente il pericolo sussiste. I depositi, quelli che abbiamo visto, si trovavano comunque lontani dai centri abitati. C'è effettivamente questo pericolo di incendio. Il mercato nero di combustibile, un business da centinaia di migliaia di euro che danneggia grandi società petrolifere come l'Eni, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, ma danneggia pure ditte come quelle di Sondrio e Domodossola, ma può colpire pure società pubbliche di trasporto fino ai privati, proprietari di mezzi pesanti o di semplici auto da cui viene spillata la benzina rivenduta poi alla metà del prezzo. Un reato, un furto, ma volto in questo caso ad aiutare la razza umana e a portare loro progresso, compì pure nel tempo senza tempo del mito Prometeo. A questo punto la linea va alle mitiche storiacce di Giorgio Jeranò, professore dell'Università di Trento, autore per Sonzogno di vari libri sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Prometeo in effetti è l'archetipo di tutti i ladri di combustibile, perché ruba l'elemento primo, che è il fuoco. Prometeo era un titano, i titani erano una stirpe di divinità che era più antica ancora delle divinità dell'Olimpo. Era un personaggio molto bizzarro. In realtà nelle testimonianze più antiche si capisce che lui ruba il fuoco più che altro per fare un dispetto a Zeus, perché è un po' un manigoldo, perché è un briccone, una di quelle strane divinità che amano fare gli scherzi e che amano divertirsi alle spese degli altri dei. Poi succede qualcosa nella storia della letteratura che lo trasforma in questa grande figura di benefattore dell'umanità, soprattutto a partire dal poeta Eschilo che gli dedica un dramma famosissimo, lo trasforma nella divinità che riscatta gli uomini dalla oscurità della vita primitiva, che permette attraverso il fuoco all'umanità di avere le tecniche, di raggiungere il progresso, di creare tutte le grandi cose che l'umanità è stata in grado di creare. Si racconta che, irritato per il furto del fuoco, Zeus poi avrebbe punito Prometeo legandolo a una rupe nelle lontane montagne del Caucaso e facendogli divorare lo stomaco per l'eternità da un'aquila. Ma la vera punizione che Zeus inflisse non solo a Prometeo ma a tutta l'umanità fu un'altra, fu ben più grave nella visione dei greci, perché Prometeo era ovviamente intelligentissimo e furbissimo, ma aveva un fratello scemo che si chiamava Epimeteo, e per punire Prometeo e tutta l'umanità che grazie al dono del fuoco stava iniziando, come dire, a diventare un po' troppo arrogante, Zeus mandò a Epimeteo il male peggiore di tutti. Creò la prima donna, che si chiamava Pandora, e fu questa prima donna che, in virtù della curiosità che appartiene fin dalle origini del tempo a tutte le femmine, aprì il famoso vaso dove erano rinchiusi tutti i mali dell'umanità, il lavoro, la sofferenza, il dolore, le malattie, e da allora, per colpa dello sciocco Epimeteo e per colpa della curiosità di Pandora, l'umanità è condannata a soffrire e l'età dell'oro è solo un ricordo remoto. Grazie dunque a Giorgio Ieranò. La chiusura delle storiacce è come sempre una vostra segnalazione. Questa arriva dalla Sicilia, da un paesino tra Trapani e San Vito. È Bartolina a scrivere per denunciare l'abusivismo edilizio nelle vicinanze delle nostre coste. Il problema è molto complesso e vorrei farvi conoscere, ci scrive a questa ascoltatrice, la nostra terra, le persone che ci vivono, le loro paure che un giorno ormai vicino possono rimanere senza una casa dove vivere. E purtroppo la storia d'Italia ci ha mostrato diversi casi di comunità distrutte da alluvioni o allagamenti favoriti proprio dall'abusivismo. E se anche voi avete segnalazioni o storie che volete portare alla nostra attenzione, scriveteci una mail oppure ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce, mentre su Twitter l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!